Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. La casa è spesso al centro dei nostri approfondimenti insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e sulla casa è stata alleggerita l'IMU, tolta quella sulla prima abitazione, rimane sulla seconda, arriverà però a breve, nei prossimi mesi, col 1 gennaio, la service tax. Come sarà calcolata, quanto pagheremo, lo scopriremo più avanti. Intanto cerchiamo di introdurci nel tema anche guardando un po' al passato e alle varie tasse comunali che magari non ci accorgiamo di pagare. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, sappiamo che tra le voci comunali, ad esempio, c'è l'addizionale IRPEF comunale che i dipendenti vedono ben scritta in busta paga, ci sarà appunto questa service tax per chi ha la seconda casa o altre attività commerciali, comunque ci sarà l'IMU con le rate di settembre o sicuramente di dicembre. Tasse, sempre tasse, balzelli anche dal punto di vista comunale. Certo, Domenico, come hai detto te, purtroppo in ottica di federalismo fiscale bisogna dire che non si è fatto nulla per cercare di semplificare la vita del contribuente italiano, ma anzi fino ad oggi si è sempre trovato l'occasione ai balzelli per far pagare più tasse e anche per permettere ai governi di delegare alla regione, alle province e ai comuni eventuali finanziarie rispetto a quelle che lo hanno approvato. Perché se è vero che da una parte il governo taglia verso le regioni i trasferimenti, dall'altra ha sempre dato la possibilità agli enti di poter applicare dei balzelli, come ha detto te, l'IRPEF comunale, ma pensiamo per esempio l'IRPEF regionale, pensiamo per esempio all'IMU rispetto alla vecchia ICI, dove per esempio i comuni potevano applicare delle variazioni in punti percentuali rispetto alle precedenti, e comunque trovare tutta quella serie di tasselli che alla fine per chi purtroppo è possessore di una casa si trova a dover subire e sistematicamente continuare a pagare. Come dicevamo, non possiamo adesso calcolare perché non sono stati definiti i criteri, quindi non sapremo quanto pagheremo della service tax per la questione rifiuti, per l'illuminazione pubblica. Guardando indietro però, insomma, qualcuno ricorderà quando fu introdotta l'ICI la prima volta, una ventina di anni fa, nel 92, poi abolita, poi rimessa, poi ha cambiato nome, però non c'era solo quella, insomma. Gli aumenti sono stati continui, questi sì. Beh, qualunque di noi in questi giorni se sfoglia un quotidiano vede e può comprendere come oggi c'è una partita aperta sulla service tax rispetto a quella che era l'IMU, dove se prima c'era un IMU di cui comunque governi e partiti hanno mosso delle iniziative per detassare l'abitazione, oggi stanno trovando un modo diverso per poter impressionare una tassa nuova e farla pagare dal prossimo anno. Certamente, come hai detto te, la cosa è anche comica, purtroppo se ragioniamo su quello che è stato il federalismo fiscale, le iniziative di alcuni governi volte a semplificare e o a detassare la prima casa con il risultato poi farti pagare di più, diventa veramente incredibile la cosa. Pensiamo per esempio all'IMU. L'IMU normalmente doveva essere una tassa che doveva conglobare l'IRPEF comunale, doveva conglobare la tassa dei rifiuti e doveva conglobare la vecchia ICI, la tassa sulla casa, e dovevano farne una sola. Invece la tassa dei rifiuti e la tassa diventata TIA, hanno servito anche il discorso del 10% rispetto a quella che era la sentenza della Cassazione che doveva costringere chi l'ha fatta pagare a restituirla, quindi già aumentata del 10% solamente per questo effetto. E poi l'ITAF comunale, di cui hanno mandato al comune di poterla sempre aumentare fino addirittura al 0,8% sui redditi, e tra parentesi ricordiamoci che c'è sempre l'IRPEF regionale anche, che poi va fino all'1,2%. Dopo hanno valutato le rendite catastali e hanno aumentato anche quelle che sono i coefficienti sull'ICI, chiamandola IMU. Quindi l'ICI è rimasta, è diventata IMU e costa di più l'effetto della vendita catastale. La tassa dei rifiuti è aumentata e non è stata assorbita dall'IMU. Per quanto riguarda l'IRPEF comunale è stata rivalutata, per cui adesso cosa succede? Che a fronte di queste tre tasse, di cui comunque ne stiamo pagando tantissimo per effetto delle rivalutazioni, hanno deciso di fare la service tax, cioè eliminare l'IMU, conglobare la TARES, la nuova tassa dei rifiuti che servirà anche a pagare i servizi del comune, e pagheremo l'IMU, che è quella che il governo ha detto di aver abolito, facendo crederci che pagheremo dei servizi che noi pensiamo di beneficiare, che in realtà comunque le amministrazioni locali hanno del tutto mai tagliate o non riescono più a garantire. Eh sì, penso ad esempio all'illuminazione notturna che spesso i comuni, i sindaci sono costretti a ridurre parzialmente, magari nelle ore della notte più fonda, proprio perché non hanno i soldi per poter pagare la corrente elettrica. Quindi spezzo una lancia anche a favore dei primi cittadini che devono barcamenarsi con bilanci che insomma si fa fatica a mettere insieme con tutte le voci che ci sono. Sì, per chiunque di noi può comunque verificare come i comuni si sono attrezzati trovando delle scamotage, per esempio trattassando gli automobilisti, o soprattutto bisogna avere il coraggio di dire che oggi l'entrata principale che il comune sta venendo a mancare, fortunatamente io anche voglio aggiungere, sono gli oneri di urbanizzazione, perché i comuni fino ad oggi hanno sempre fatto i bilanci su quella che è stata la speculazione del mattone, dove per i bilanci comunali gli oneri sono sempre stati delle entrate correnti che hanno potuto spendere come meglio volevano. Quindi è vero che da un lato i primi cittadini hanno delle difficoltà a dover far quadrare i conti, però dall'altro è vero che di fronte alla realizzazione di certe opere o di certi interventi ci dovrebbe essere più accuratezza e magari maggior consapevolezza a non sperperare i soldi pubblici su interventi magari a volte inutili. Su queste tasse comunali, quando ci sarà maggiore chiarezza, la faremo anche noi, sempre tramite l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che ringraziamo col presidente Carlo Garofolini e che ritroveremo la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie Carlo. Grazie a te, mi saluto tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.